La manifestazione è aperta. La parola per primo Alfonso Farina. Alfonso Faïla trace un historique des luttes ouvrières à Carrare. Il souligne que la classe ouvrière de cette région, et notamment les travailleurs du marbre unis dans le syndicat libertaire, a réalisé depuis longtemps des conquêtes sociales telles que la journée de travail de 6h30 qui la place encore aujourd'hui à l'avant-garde du mouvement ouvrier international. Cittadini, noi siamo qui riuniti per un congresso internazionale anarchico per fare noi il punto sulla situazione del nostro movimento in questa città che non ha soltanto al suo attivo dei comizi, delle manifestazioni oratorie, dei cortei e dei canti. E dall'inizio del movimento operaio, fin dalle prime notte, che la classe operaia cominciò a combattere, prima per ottenere migliori condizioni di vita sul solco della completa liberazione. I cavatori del marmo di Carrara, in particolare la classe operaia della zona occupata, i cavatori di Lignite e di Lune in questa zona, organizzati principalmente nelle organizzazioni primigenie del sindacalismo libertario, si posero all'avanguardia del movimento operaio per la decisione della lotta, senza equivoci, senza compromessi ed anche per le conquiste di pionieri che ancora li mettono in una posizione di avanguardia di fronte a tutta la classe operaria mondiale.